Pan Putin stał i jest cały pan do nas. Ja nie Elisabetta, nie ja la vana, ja la mio, deve ti con moge tu, non mi ignano, sta volta. Sta che la rosa minestra, Kad bi la rosa minestra? Ja, ja. A, že znam, kad daju borsi jednu, a tri? Pa je, da sluhanje ose. A, na njoga, za tri, za kim dugo je, ne? Ispun je za njoga. A, tu bih neče. Tu su fajne, ja. Mi si mangia una prova di una famiglia. Ma che non mi ha detto. Sarà una cosa. Aspetta.